Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare sarà la nostra 303esima, magari 330, sono solo 303, trasmissioni a cui gradiamo, insomma, che ascoltiate, perché abbiamo delle ospiti speciali questa sera. Chi vi sta parlando è Caterina e con me ci sono Lucilla e Rosina. Dunque, stavo dicendo che abbiamo delle gradite ospiti, purtroppo soltanto collegate con noi con il telefono. La prima che chiameremo sarà Edda Billy, che sicuramente è una delle testimone e delle protagoniste degli anni del femminismo italiano. La seconda donna che chiameremo invece sarà Laura Valle. Laura è una regista ed è in modo particolare la regista del film 100 di questi giorni, scritto insieme a Paola Pietrangeli, che purtroppo stasera anche lei non è potuta venire, ma che ci auguriamo ci stia ascoltando e quindi salutiamo. Ora metterò un brano musicale che ci darà modo di impostare il collegamento con Edda, e quindi, visto il tenore della trasmissione, ho pensato di mettere La Lega, cantata questa volta da Anna Identici. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amore dei nostri figli. Sulle note della Lega sentiamo se ho fatto bene il collegamento prima di tutto. Allora Edda, ancora eccomi. due secondi e poi siamo tutte tue, ok? E io tutta vostra. Intanto buonasera a tutte, e siamo intanto qua Lucilla, che sono io, e Rosina. Salve. Che è la nostra voce. E volevamo dire due parole, proprio due parole, su Paola Mastrangeli, che invece stasera non intervistiamo, e che però ha partecipato alla stesura della sceneggiatura del film. Anzi, per quello che ci ha riferito, è stata una persona che ha fortemente voluto questa testimonianza, ed è stata alle costole di Edda insieme a Laura Valle affinché si producesse questo video. Allora, Paola Mastrangeli è nata, così come dice lei, è nata e quindi è esistita da quando nel 1974 è entrata in Pompeo Magno. Prima non c'era. Lei ha detto che ha ritrovato un'identità proprio all'interno di questo gruppo, da femminista. Ha quindi lavorato per tutta una vita, la sua vita politica, alla liberazione delle donne, non all'emancipazione. Ci tiene moltissimo a fare questa precisazione: la liberazione delle donne. Attualmente si occupa delle problematiche del linguaggio e di questioni legate alla sessualità, ma soprattutto legate alla prostituzione coatta e alla tratta delle donne. Questo è il suo pallino in questo momento e di questo si occupa. Ha voluto fortemente lavorare a questo film perché, secondo lei, Edda è in ascolto e quindi poi potrà gioire oppure potrà dirci, ma perché ritiene che Edda sia il sunto del femminismo, perché è innanzitutto una rivoluzionaria a tutto tondo ed è una poeta imprigionata in un corpo politico. Io credo che questa sia una vera dichiarazione di affetto, di riconoscimento per Edda, e noi amiamo tutte quante Edda, e quindi assolutamente sì. E quindi adesso iniziamo con la nostra trasmissione. E allora, ciao Edda, buonasera, senti che dichiarazioni di amore che ti hanno fatto. Allora, tu ci senti, Edda? Sì, ti sento benissimo. Dunque, cominciamo col dire che Edda ha compiuto 80 anni un paio d'anni fa, giusto Edda, se non sbaglio? E il giorno che ormai siamo su 81, la Casa Internazionale delle Donne, questo filmato è stato fatto un anno fa, grande festa, febbraio di un anno fa, e quella festa è diventata l'occasione per cominciare oppure proseguire a ricordare tutti quei momenti e quei giorni che hanno scandito la vita politica, e non solo la vita di Edda, le battaglie, le speranze, qualche volta le vittorie, non sempre, ma purtroppo questo fa parte della vita. E soprattutto è stato anche un modo per ricordare la grande passione di Edda e tutte le sue energie. In questo film, che appunto si chiama 100 di questi giorni, c'è una bellissima quarta di copertina, diciamo così, che vi vogliamo leggere, perché in qualche modo racconta della vita di Edda, quello che Edda è. Ve lo leggo così com'è: dalla giovinezza in Maremma, sua terra d'origine, nella quale lei, lesbica, ha patito umiliazioni e preso letteralmente calci, all'arrivo a Roma, dove può cominciare a sperare in un mondo diverso. Ma Edda non è soltanto passione politica femminista. Edda ha amato ed è stata amata, è poeta, scrive, sogna e raccatta ogni cosa che le piace: perle perdute da una collana, sassi, figurine, ciucciotti, pezzetti di ferro e le cose abbandonate dal mare, memorie tutte di vite sconosciute. E poi la sua casa piena di libri, riviste, fogli, qualsiasi pezzo di carta dove ci sia scritto la parola donna, perché è questa la parola che dà un senso alla sua vita, quella passata e quella futura. Edda, avere tutte queste donne alla Casa Internazionale a festeggiare i tuoi 80 anni, che cosa è significato per te? Che cosa hai provato nel sentire questa vicinanza, questo affetto, questa stima, questo rispetto, questo amore? Senti, è stato qualcosa che ormai dura da più di 43 anni, perché io ho cominciato negli anni 70 e non ho mai smesso da allora di stare e di essere in rivolta più che nella rivoluzione. Proprio in questo devo dire veramente grazie a Carla Lonzi, perché aveva con grande precisione toccato quello che doveva essere, che era la possibilità di esistere al mondo non definita da altri. ed è una delle cose più difficili, perché continuiamo ancora oggi a fare questa ricerca. E io devo intanto al mio collettivo, che è stato questo collettivo incredibile, ma veramente a tutte le donne che ho incontrato, la possibilità di lentamente ma inesorabilmente andare avanti nella conoscenza di quelle che io chiamo oggi la lesbicità. Ora io vi porto questo concetto, che è assolutamente ancora da sfrondare, ancora da definire bene, perché è un concetto che nasce dal mio lesbofemminismo, nasce quindi dal lesbismo, e però è qualcosa di più per me, che vorrei poter discutere davvero con tutte le altre donne, perché ancora non è stato fatto, capito? Sì, questo lo capiamo benissimo, Edda, perché anche noi che siamo un gruppo di donne lesbiche dovreste parlare più forte. Mi senti ora? Devi parlare più forte, sì. Lei dice ora è abbastanza forte? Sì, ora va bene. Ok, allora sì, lo pensiamo anche noi, Edda, pensiamo che perché di lesbismo non si parli mai abbastanza, e che purtroppo le stesse donne lesbiche abbiano poi delle difficoltà, no, a nominarsi, a dirsi. Ma questo è logico, per carità, di lesbismo bisogna non solo parlare, bisogna anche viverlo, figuriamoci. Non certo più da me, ormai vi guardo da lontano un po', e voi lo sapete, no? Una donna lesbica che non ha una storia d'amore è per la gente comune un etero d'obbligo, lo sapete, sì, no? Un eterosessuale d'obbligo. Io però orgogliosamente lo dico sempre, io sono invece una lesbo femminista ancora. Lo sappiamo bene, sai perché? Perché questa è una delle frasi che noi diciamo, cioè tu per noi sei un po' un Vangelo, mettiamola così, hai delle frasi che... Un Vangelo laico, sottolineo. Sì, un Vangelo molto laico. E noi riportiamo spesso nelle nostre riunioni o nelle nostre conversazioni delle tue frasi, che per noi sono ormai diventate frasi storiche. Senti, Edda, io sai che provengo dalla tua stessa terra, e che è una terra calda, bella, ma anche un po' arretrata. Allora, intanto, e quindi condivido con te alcune cose, non so, delle cose profonde che io sento un senso di appartenenza, e sento che io e te in qualche maniera ci apparteniamo. Ma quello che noi ti volevamo chiedere, no? Nella tua pratica lesbofemminista, appunto, hai frequentato diversi luoghi politici, perché i luoghi sono tanti e tutti sono sicuramente permeati di politica, ma ce ne sono alcuni che lo sono un po' di più, ecco, e che sono stati significativi per te, ma anche per tutte le altre donne che li hanno vissuti, e ci riferiamo a Pompeo Magno, che tu hai già menzionato, a Governo Vecchio, e alla Casa Internazionale delle Donne. Ok, ci vuoi raccontare qualcosa della tua storia in questi luoghi? Cominciamo da Grosseto, perché vedi, uno dice si comincia da Roma. No, io vorrei farti un accenno invece alla mia dichiarazione di lesbismo che ho fatto in un paesino che si chiama Follonica, e quindi che si è riverberato sul Grosseto, dove io studiavo e dove ho conosciuto Miranda, una donna favolosa. Quindi mi stai fregando la terza domanda, vai che vai benissimo, sì, così. Ma mi viene proprio perché, siccome mi dici di parlare dei luoghi, questo è stato un luogo importantissimo, certo. Perché Miranda, che mi chiamava Marjolaine, io ci tengo moltissimo a questo, Marjolaine, è stata una bellissima. Delle donne che ho amato e che orgogliosamente l'abbiamo anche fatto vedere, capire evidentemente, così tanto che la mia professoressa di italiano, che mi voleva anche un po' di bene, anche perché ero bravina, mi disse: guarda, tu devi andartene da Grosseto, perché qui non ti daranno mai il diploma. capito? Ho capito, quindi, voglio dire, sì, terribile, è stato terribile, perché era davvero un paese, perché era un paesone, il nostro Grosseto, amore. Lo è tuttora. I dintorni meravigliosi, le pinete, il mare, il profumo di tutti gli arbusti che ci sono, e veramente è fantastico, ancora lo sento ancora, sia chiaro, tutte le cale martine, le cale violine che sono anche vicino a Follonica, ma il paese era di una mare in mano. Di una violenza e di una cattiveria più unica che rara proprio, Però devo dire, ecco, io lo rivendico persino quell'epoca, perché credo di aver vissuto i miei primi rapporti lesbici proprio con la testa alta, ecco. Con la testa questo alta, sì, dire. E poi Miranda, a questo punto, visto che l'hai già nominata, per me è stata una donna importantissima. Io ero nello stesso collettivo, quindi in anni successivi, negli anni della seconda metà degli anni 70, certo. E venivamo a Roma insieme con gli autobus che facevamo, i pullman che facevamo, e lei a noi più giovani ci portava a teatro, ci offriva il teatro e ci ha insegnato tante cose. Era una donna generosa, una donna grandiosa, che, alla quale io sono riconoscente per tutta la vita. È un'altra delle luci, delle piccole luci che porto dentro di me. Sì, lo posso capire bene, puoi immaginare se lo capisco bene. Sì, poi gli altri luoghi, naturalmente l'hai già accennati, anche te. Ma l'incontro con Pompeo Magno, per te cosa è stato? Hai detto prima, hai fatto un piccolo passaggio, che era un gruppo straordinario. Noi ricordiamo che si chiamava Pompeo Magno dalla strada in cui era stava. Era il movimento femminista romano. Movimento femminista romano di via Pompeo Magno, perché i collettivi a Roma sono poi passati alla storia come con le vie, stranamente, di un maschio oltretutto. Questo mi dava anche un po' fastidio, ti dico la verità, però siamo quelle, sono una di Pompeo Magno, ecco. È facile sentire questa frase, sì. Ma Pompeo Magno è stato un collettivo di una forza incredibile, perché sono passate da questo collettivo migliaia di donne, veramente migliaia di donne, e un'infinità di gruppi, sono nati lì da... In che anni erano? Erano gli anni 70? I primi anni 70, 71, 72, 74, 75, tutti quelli che vengono dopo, e lì sono nati un'infinità di collettivi che hanno dato veramente, che hanno fatto la storia del femminismo, quello romano perlomeno, perché Donne Teatro è nato lì, Donne Musica è nato lì, e tutto il discorso dell'aborto, per cui andavamo a portarli a Firenze, perché allora era, e si andava in galera, una donna che abortiva andava in galera, quindi bisognava dargli una mano, e lì sono nati tutti i collettivi della scuola, i collettivi, il collettivo lesbico, un collettivo lesbico che è nato quando abbiamo capito che c'era bisogno, che come lesbiche avevamo davvero bisogno di un confronto che andasse al di là della cosa del femminismo, del grande ombrello del femminismo, e comunque dei temi che andavano per la maggiore, no? Edda. Sì. E dei temi che andavano per la maggiore in quel momento, trainati dalla grande forza del movimento femminista, come l'aborto, come la legge contro la violenza sessuale e via discorrendo, però c'era sicuramente uno specifico sul quale doversi confrontare, che era proprio delle lesbiche, perché altrimenti... È stato proprio questo bisogno, tesoro, perché ci siamo resi conto che altrimenti rientravamo... Persino in un collettivo femminista si rischiava di non avere la specificità, o comunque il fatto di esistere in quanto lesbiche diventava molto difficile, capito? Certo, devo una dire, è stato abbastanza interna. Facile nel mio collettivo, perché era molto aperto, molto, molto simpatico. Perché non era un collettivo lesbico Pompeo Magno, era un collettivo fatto veramente di molte donne eterosessuali e moltissime donne lesbiche, sia chiaro, perché le lotte più importanti hanno sempre visto, compreso quello per l'aborto, puoi immaginare quanto ci importava a noi dell'aborto. Guarda, io ricordo le manifestazioni, venivo a Roma, chiaro. Edda alle manifestazioni da Grosseto, ed è stato il gruppo Pompeo Magno a darmi per la prima volta una svegliata sulla vasectomia. E quindi voi lesbiche ovviamente facevate all'interno un discorso estremamente interessante proprio sul discorso, per esempio, che portava avanti il femminismo, quello sulla contraccezione, per esempio, no? Certo. Senti Edda, se mettiamo un pezzettino musicale. Certo, no, ti dico solo una frase. Sì. Io infatti dissi vasectomia libera e gratuita. Brava, sei grande. Ecco. Mettiamo un piccolo e poi pezzo. Vada la musica. Ok. Beh, questa musica non è granché. Io direi di continuare a chiacchierare lasciandola casomai come sottofondo, e poi mettiamo un brano musicale dopo. Allora Edda, dopo averci detto delle cose molto importanti su Pompeo Magno, ci piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa invece sull'altra grande casa delle donne a Roma, che era Governo Vecchio, e quindi che ha rappresentato in quegli anni Governo Vecchio. Ma noi stavamo appunto a via Pompeo Magno e purtroppo fummo sfrattate, e quindi siamo state randagio per un po' di qualche mese. Nel frattempo il Movimento di Liberazione della Donna occupò il Governo Vecchio. Grande. E noi il giorno dopo, come Pompeo Magno, andammo a dar loro una mano e cominciammo a lavorare al Governo Vecchio. Perfetto. È nato così, capito? Con riconoscimento totale alle compagne dell'MLD, che sono state assolutamente le prime, sia chiaro. E al Governo Vecchio, con le porte spalancate sul mondo, dove potevano entrare tutte le donne davvero del notte e giorno. Io mi sono sempre chiesta come sia andata che non ci abbiano trovato carri armati, perché c'è stata l'epoca persino del terrorismo, sei chiaro? Certo. Veramente. La forza delle donne era talmente tanta che siamo riusciti a tenere fuori, quasi con i corpi, quasi con l'intelligenza dei corpi, anche questa violenza che fuori c'era, capito? Sì. E lì sono passati centinaia, veramente centinaia di collettivi, bellissimi, sì, è stata un'esperienza fantastica. Sì, infatti dai racconti delle donne che hanno vissuto Governo Vecchio per fare politica, per abitarci, per conoscere, eccetera, noi sappiamo, ci è arrivata quella ricchezza, ci è arrivata e oggi lo diciamo con un po' di nostalgia, però si può dire: donna, lo sai la forza che hai? Sì, lo so. La forza che ho. Certo. Senti, e della Casa Internazionale delle Donne di Roma oggi? Ora è stato il terzo passaggio per me femminista, perché io sarò femminista per sempre, sia chiaro, perché per me il femminismo essere femminista è un modo di essere, la mia felicità è la mia la festa, come diceva Carla Lunzio, veramente sì, è la mia festa sempre, questo nessuno me lo potrà toccare mai, sia chiaro, perché guardare il mondo con i miei occhi, per dirci, è stata la grande scoperta che ho fatto nel mio collettivo, e posso solo che andare avanti. La casa delle donne di oggi è nata come puzzo femminista, perché da lì siamo arrivate, dopo lotte, e Paola Mastrangelo una in testa, veramente anche lei, perché dovemmo lasciare per forza il Governo Vecchio, che era fatiscente oltretutto, sia chiaro, e grazie a una persona molto in gamba, perché era il sindaco di Roma che fece una delibera dando indietro il governo vecchio, loro si dettero la casa del Buon Pastore, si chiamava così perché si chiamava così. Per molto tempo è stato il Buon Pastore. Sì, noi continuiamo a chiamarla così per noi il Buon Pastore. Lo so. Noi abbiamo smesso, ormai lo chiamiamo la casa internazionale delle donne, diciamo la casa con la C maiuscola, capito? E devo dire, il cambio fu abbastanza interessante, perché lasciammo un luogo assolutamente fatiscente, perché il governo vecchio era un luogo fatiscente, sia chiaro, per un luogo che invece fu ripristinato per pochi, erano tre grandi stanze e un pezzo di giardino. Sì, me lo ricordo bene, con il tuo banano, me lo ricordo. Un uomo lungimirante, onestamente qualche volta qualche maschio lo riconosco anche, perché fece una delibera in cui per la prima volta c'era la parola femminista. Che avrebbe dato a movimenti femminili e femministi in cambio del governo vecchio. E fu dato solo una parte, perché anche quella era fatiscente, sia chiaro, certo. poi tutto il resto trasmissioni per fare quello. Tu vuoi sapere cos'è oggi? Sì, in due parole, perché dobbiamo chiamare Laura Valle anche. Perfetto, amore. Oggi è la casa dove molte donne lavorano, molte di loro lavorano veramente gratis, con grande sacrificio, devo dire, grandi riconoscimenti. Io do questo riconoscimento a Coq, per esempio, veramente a tante di loro che lavorano senza prendere una lira, certo, per poter pagare però una quindicina di ragazze che invece vengono pagate, che sono nell'ostello, che sono al ristorante, sia chiaro. È una casa costosissima, perché la paghiamo. Molta gente pensa che questa casa sia data gratuitamente. No, viene pagata e pagata molto, per cui bisogna, siamo dovute diventare delle imprenditrici, tutto da ridere, però gioco forza, capito? Certo. E quindi, per quanto mi riguarda, non è più la mia casa del femminismo, è la casa dell'associazionismo, però di tutto rispetto. Va bene, posso prima, vorrei soltanto, Edda, me lo fai un regalo? Ce la regali una tua poesia? Noi abbiamo detto, tu sei poeta, scrivi delle cose meravigliose, io so che fra breve saranno anche pubblicate. Una cosa breve, corta, che ti sta nel cuore, e ce la regali. Aspetta, ce l'ho da bere qua vicino, 3 secondi. Sì. mentre Edda va a cercare il libro delle poesie, il quaderno delle poesie, non so dov'è, io intanto, se Laura è in ascolto, le chiedo di avvicinarsi. Ecco Edda. L'ho messo qua, ma che strano, guarda. Allora vi leggo questa. Sì. Vai. Sono una poeta maldestra, perché non scrivo rime per addomesticare il cuore. Avrei bisogno di pozzi e di fontane, di donne dalla testa rossa che cantassero antiche melodie, e persino di un contrabbasso che facesse da sfondo. Rimango muta di fronte al ragno che tesse le sottili malinconie dei giorni dispari. Aspetto che si svegli la vita, perché sono soltanto una poeta maldestra che ama le donne dai grandi piedi che poggiano con cura sulla terra. Bellissima Edda, io mi prenoto più copie, non una copia sola. Noi ti ringraziamo, sì, e ti abbracciamo veramente con grande affetto per tutto quello che hai fatto, per quello che farai e per questa testimonianza che hai voluto regalarci. A questo punto, è stato un piacere grandissimo, lo sapete. Tanto noi ci vediamo alla casa. Ti amo molto, tutte grazie. Noi ti dedichiamo alla prossima canzone, e l'interprete probabilmente la conoscerai benissimo, perché si tratta di Fufi Sonnino. Sì. E quindi ti dedichiamo Una donna nella tua vita. Ciao, grazie Edda, grazie di aver partecipato alla nostra trasmissione, e ci vediamo presto. Ciao Edda, a presto. Ciao. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Eccola. Yeah. della tua vita. Il tuo profilo di dita leggere e le favole salvere su di te. Questa è la ragione di una donna nella tua vita. Cerchi la ragione di una donna nella tua vita. Ed ecco qui sulla voce di Fufi Sonnino, naturalmente questa vi... era... c'è stato un piccolo c'è problema. Mi è piaciuto talmente tanto e la volevo rimettere. Eccola, allora, affermata. Salutiamo Fufi Sonnino, che non è presente qui in corpo, ma evidentemente in spirito sì. E intanto vi ricordiamo ovviamente che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, che lo ricordiamo, è una trasmissione a cura del Coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del Martedì Femminista e Lesbico Autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. Se volete, ci potete ascoltare in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, tramite il sito ufficiale del CLR www.clrbp.it, basta cliccare sulla icona in diretta. Se volete, potete scriverci una mail a contatti@clrbp.it, visitare la nostra pagina Facebook CLR oppure il nostro sito clrbp.it. Per le nostalgiche di carta e penna, CLR, Coordinamento Lesbiche Romane, presso Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales, 1B00165, Roma. A questo punto introduciamo Laura Valle, che abbiamo il piacere di ospitare stasera. Laura, ci sei? Ci ci sono. Buonasera. Ciao Laura. Allora dirò soltanto due parole per presentarti un po' meglio. Allora, Laura Valle ha lavorato per oltre 20 anni, fino al 2009, presso la RAI nell'ambito della produzione di programmi televisivi di successo, tra i quali Harem, se lo ricordate, era quel talk show di Katniss Pack, e la rubrica quotidiana Cominciamo Bene, condotta da Alicia Colò. Ha realizzato video e cortometraggi su luoghi, temi e figure del femminismo romano. Tra gli altri ricordiamo la frase è quella che poi aveva citato Lucilla, perché era uno slogan di quegli anni: sì, lo so, la forza che ho, col quale si apre uno scorcio su persone ed attività della Casa Internazionale delle Donne di Roma nei primi anni della sua inaugurazione, quindi più o meno dal 2003-2004. E poi ha realizzato Le 5 giornate lesbiche, il documentario su un evento di portata nazionale e non solo, svoltosi a Roma nel giugno del 2010. E poi L'altra metà del cielo, che è un intreccio di interviste a 7 donne diverse tra loro, ma accomunate dalla scelta lesbica, che penso abbia fatto il giro un po' di tutti i locali, i centri ricreativi, le associazioni in Europa, ha fatto un po' il giro del mondo, insomma, una cosa molto molto importante. Però Laura, abbiamo già detto, è la regista del video che è stato girato e che parla di Edda, che abbiamo appena ascoltato, dal titolo 100 di questi giorni. Allora io ti voglio fare subito una domanda: qual è il motivo che ti ha spinto a volere questo lavoro? Cioè, quanto è stato per esempio il piacere nel realizzarlo e quali difficoltà hai incontrato? Guarda, questo film nasce da molto lontano, nasce da, se credo, 10 anni, 12 anni, forse anche di più, quando una volta, vedendo Edda alla casa, mi dissi: ma sai Edda, quasi quasi ti farei un'intervista, così mi racconti un po' la tua storia. Quasi quasi. Allora, mi dice: sì, Cittina, quando vuoi, chiamami la settimana prossima. Cittina. Poi, come sempre, le cose vanno come vanno. Io lavoravo ancora in Rai all'epoca, quindi poi ho fatto altre cose, poi ci siamo distratte, poi un milione di cose. E questa cosa è rimasta lì, sempre nel mio cervello, sempre nel cassetto, sempre. Ma io dovrei fare questa intervista a Edda, la vorrei fare, finché l'anno scorso finalmente c'è stata la festa del compleanno. Certo. Io sono andata lì con la telecamera e ho girato questa festa. A quel punto ho detto: beh, a sto punto però non ci sono più alibi. E certo, anche perché il primo passo l'avevi fatto ormai. Era il primo cast. Certo. E allora ho detto: beh, ma questa sta roba, ma mo che faccio? E a quel punto ho detto: beh, basta, ora basta indugi, basta chiacchiere, basta scuse, ora si fa. E a quel punto ho chiamato e ho detto: via, ora partiamo sul serio. Certo. Questo era febbraio dell'anno scorso. Durante l'estate, sì, più o meno durante l'estate abbiamo cominciato a fare le interviste. Se voi avete visto il video, sì, al Cinema L'Aquila abbiamo visto. Ecco, che l'intervista Edda si svolge in vari luoghi. Mm-hmm. Quindi me la sono portata in tutte queste cose. e io ho fatto tutta questa serie di domande, di cose, mi sono fatta raccontare tutta la sua vita. Però ti dico, è un progetto che risale a moltissima vita. Ma sai, alla fine, sai che cosa ho trovato bello di questo film? È che attraverso la ricostruzione della storia personale di Edda comunque è venuta alla luce quello che è stato il movimento femminista e lesbico romano, ed è una cosa che per un pezzetto mi ha visto comunque come fruitrice, perché mi affacciavo appena appena in quegli anni, però vedere queste figure, quelle figure, è stato bellissimo, è stato bellissimo. Però sai, la spinta che mi ha fatto appunto domandare tanti anni fa Edda, voglio farti un'intervista, era certamente raccontare la sua vita. Certo. Che è una vita interessante, una assolutamente vita, una vita sì, piena, una vita bellissima. Però è chiaro che Edda è un simbolo, certo. È una vita vissuta, è una che incarna veramente, perché gli sono passati addosso questi anni, lei l'ha vissuto tutti, l'ha certo. Tutti, ha fatto tutto, quindi è chiaro che gli attraverso la sua vita. Sì, sì, no, ma l'altra cosa. Assolutamente sì, l'altra cosa che diceva prima Lucilla per esempio è che noi ogni tanto la citiamo, ci sono delle sue frasi che sono storiche che ogni tanto noi ripetiamo, tipo per esempio se il patriarcato è morto c'ha un fratello gemello che gode ottima salute, per cui c'è cose così, capito? La vulgata lesbica purtroppo quello ancora è vivo. Senti Laura, ma per chi non avesse potuto vedere, puoi dire dove e come è possibile reperire questo video? Veramente non lo so, io l'ho fatto, poi non so dove si vede. No, ti spiego perché questo video l'ho fatto interamente io, cioè l'ho girato e l'ho montato, e quindi io ho le copie a casa, proprio lì, non è che c'ha una distribuzione, ho una cosa fatta, diciamo, tutta quanta così, io e Paolo naturalmente, certo, però diciamo l'abbia fatto noi in casa, ecco. Okay. E chi lo volesse vedere, lo volesse prendere, io non. Ma noi possiamo fare da tramite, eventualmente scrivono a noi e poi lo facciamo in modo di recapitarlo noi. A me fa molto piacere. Va bene. Okay. Questo video va in giro, figuriamoci. Oh, io l'ho comprato, lo posso anche piratare se vuoi. Ma non c'è, tanto mi fai una cortesia, perché tanto se no lo devo rifare io. No, però stiamo scherzando. Veramente quello che ha detto Caterina, noi siamo davvero lieti di fare da tramite perché questo lavoro possa circolare. Quindi guarda, se tu ne hai delle copie disponibili. A questo punto, dato che siamo in diretta, che siamo in questa trasmissione, vi voglio dare anche una notizia in anteprima. Sì, sì. E cioè che questo video è stato scelto dal Fuori Salone di Milano e verrà quindi proiettato anche a Milano. Che meraviglia, questa è una ottima notizia. È una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché c'è una rassegna di film piuttosto importante in Italia. Ecco, bene, benissimo. Ovviamente già stato visto alla casa, vabbè, ma questo lo sapete. Certo, il fatto che vada alla rassegna di Immaginario Fuori Salone di Milano. Bene, ottimo. È una bellissima cosa, siamo veramente molto contenti. Una notizia fresca. In anteprima, bene, sarà un motivo in più per andare al Fuori Salone delle Lesbiche a Milano, no? A Milano, certo. Senti, io ti volevo fare un'altra domanda, perché mi viene proprio spontanea, perché ogni tanto noi, stando anche noi all'interno della Casa Internazionale delle Donne, ti vediamo spesso fare delle riprese con la tua telecamerina che riprendi tutto quanto succede. Allora ti volevo domandare quant'è importante per te la memoria e che significato ha registrare le tracce di ciò che si fa. La memoria è importante e si sa, detta così sembra anche una banalità. Certo, no, non lo è affatto. Però è importante, per quel che mi riguarda, in particolare la memoria delle cose che riguardano le donne. Certo. Perché è, diciamo, un settore, chiamiamolo così, che non è quasi per niente toccato da cultura, vogliamo dire, ufficiale. Certo. Non, diciamo, viene sussunto nella genericità del e invece io credo che c'è un punto di vista delle donne, sulle donne, che va mantenuto, va tenuto. È la ragione per cui, appunto, io dicevo, c'è stata la cosa di Edda, il film su Edda, perché la memoria è importantissima. Io me ne rendo conto certe volte quando mi appassiona un argomento, vorrei fare qualcosa e vado a cercare delle immagini e mi accorgo che non c'è niente. Com'è possibile che nessuno abbia voluto, abbia pensato di fare una foto, un video, non so, su questa cosa, non c'è una testimonianza? E certe volte dico, ma è un peccato. È certo che è un peccato, è un pezzo di storia. Perché sono cose che, guarda, che la storia degli anni 70 di Edda e anche in parte la nostra è già storia. E certo. Noi l'abbiamo vissuta, a noi sembra una cosa molto vicina, ma ragazze che oggi hanno 20-30 anni, se non hanno materiali di questo genere, chi gliela racconta? Assolutamente sì. E quindi io mi sento, ora, in dovere forse la parola troppo forte, però penso veramente che chi ha, diciamo, un po' il mestiere, chi ha lavorato in quest'ambito e ha la possibilità di lasciare delle testimonianze, penso proprio che debba, certo, veramente farlo, oltre al piacere e al divertimento, che noi ci siamo divertiti da Marte tutti e tre. Assolutamente sì, ma diciamo. Sono una sorta di radici che si devono tramandare poi di generazione in generazione, se non c'è... Tu immagina le cose che oggi noi non abbiamo. Esatto. E pensa a quante ne abbiamo perse, purtroppo. Certo, certo. E allora dico, beh, insomma, se nei limiti del possibile, quello che si può fare, anche quello che ci piace fare, quello che ci diverte fare, certo, facciamolo. Se abbiamo, certo, le possibilità, se abbiamo queste cose, macchinette, usiamole. Allora a questo punto mi viene spontanea un'altra domanda. Quali sono invece i lavori che intendi realizzare? Cioè, hai percezione che si muova qualcosa di importante da filmare, da registrare? Oppure hai qualche sogno nel cassetto? Esatto, hai un altro sogno nel cassetto. Guarda, a me, come vi ho detto, a me piacciono le vite, le vite delle persone. E quindi sto pensando di fare qualcosa di questo genere, ma insomma con delle cose diverse naturalmente. Però di raccontare un'altra storia di vita, un'altra vita di un'altra donna. Ottimo. Che non vi posso anticipare, però. Assolutamente no, e se no ci rovini tutta la sorpresa. Non gliel'abbiamo neanche parlato. Ah, ecco. Tu sta frullando nella testa a me e altre due o tre. Ho capito. Stavo raccontando tra noi, ma questa poveretta non sa niente. È una protagonista a sua insaputa. A sua insaputa, sì, ora va molto. E quindi non posso dire, però insomma, diciamo, a me piace molto raccontare la vita, trovo che siano bellissime le vite. Certo, certo. Senti, allora io sempre per rimanere in quegli anni meravigliosi che io ho goduto a pieno e fino in fondo, io rimetterei un'altra canzone di Fufi Sonnino, certo, che per me ha segnato tantissimo un punto di svolta. È sempre un bello ascoltare. Esatto, esatto. Ed è, sì, il tango della femminista. Esatto. Allora Laura, sulle note di questa canzone noi ti salutiamo, ti ringraziamo di essere intervenuta e poi ci metteremo d'accordo se qualcuna dovesse scrivere per volere di Rosina, oppure no, invece la mia anche la vita di Caterina. No, allora e già da ora rimaniamo d'accordo che la prossima intervista sarà sulla prossima biografia. Esatto, sulla signora X. Della signora X. Che noi volentieri verremo a vedere e poi ne parleremo insieme qua in radio ancora una volta. Va bene, molto, va benissimo. Volentieri. Grazie Laura. Allora, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci, grazie. Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Tango della femminista. Della ribellion, col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ce prova più. Aritango della femminista, tango della ribellion. Con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Tango della femminista.